GM95, che c'è anche il beep, ma neanche a me fa un po' schifoso, aspetta, c'è il regolatore del Michigan e poi faccio questo beep qua. Sempre l'Intec però con ZG MB più 4. Per Bubba, ciao, ci vediamo, cosa ne dici? Ehi, a confermo, buonasera a tutti. Buonasera Massimiliano. E invece con questo è sempre la modulazione che ho io, con un apparato diverso. Più bella questa, più bella, più chiara, più corposa, più presente, quella là è metallica, tutta burottosa, no? Piace, è molto più bella questa. Ciao Massimiliano, dove sei? Andando a conto di comune. Ho visto essere segnale, cappa. Sì, sto passando qua vicino perché ero da Gavino a portargli quella cosa là che mi ha dato Luigi, capito? Come in zona mia abita Gavino? No, Gavino abita in zona dove c'è più ruda. Funziona ancora, l'ho staccato funzionante, e poi chiede a qualcuno a vedere se gli può interessare, tutto lì. Anzi, aspetta un attimo, ho provato una cosa però, riesci a vedere, tac. Prova, e così invece cambia qualcosa? Metto un pochino di radio, ma va bene, va benissimo. Un masso di radio? No, aumenta del radio. Mi ha attaccato un'altra cosa. Va bene, dai, vado un po' a chiedere a qualcuno. E non si è fatto sentire nessuno oggi qua? Allora, scusate un attimo, dai, che riprendo io che qua sono parcheggiato e devo spendere, dai. Ci sentiamo domani, poi quando sarà, dai. Ciao, buon proseguo di giornata, buon consiglio a tutti e due, con la famiglia e tutti, dai. Io vi saluto, lo spendo. Ciao Massimiliano, un abbraccio, salutissimi sempre a QRA e ci sentiamo alle prossimine, dai, buona cena, buon tutto, buon fine settimana, alle prossimine, vai Antonio. Ehi, buon proseguimento di serata e ci sentiamo alle prossime, dai. Ciao. Dicevi Antonio? Ma adesso ci si è fatto sentire qualcuno, ho detto. Ma guarda, una certa ora eravamo una decina sul canale 10, una decina proprio intorno alle 7, alle 8, una cosa del genere. Una decina, poi ho staccato un po' perché mi facevano gli occhi, ho controllato la posta al computer e poi mi sono andato a cenare. Adesso ho riacceso, ho sentito a te che stavi chiamando. Tanto per provare questa scena qua. E niente, oggi non sei andato da nessuna parte, no? Ma non esco mai io la domenica, no? Il sabato sì, ma la domenica non vado mai da nessuna parte. È difficile perché non è che non abbia qualche impegno particolare, ma ho lavorato anche stamattina, alle, non so, mezzogiorno così. Mi sono visto con Antonio, abbiamo fatto due chiacchiere per piazzare segni. Poi l'una sono entrato a casa, niente di particolare. Giornata normale come tutte le altre, Antonio. Oramai per me è buttato completamente nel lavoro, quindi la settimana è uguale agli altri, diciamo, dai. Non cambia niente. Comunque oggi non è a lavorare, è a riposo. Ho lavorato stamattina, poi verso mezzogiorno ci siamo dati appuntamento con Antonio Grode, ci abbiamo fatto due chiacchiere per fare segni e all'una poi sono rientrato a casa. Ah, ti ho capito bene, va bene, niente di particolare. Mi è uscito un lavorettino stamattina, ne ho approfittato, un piccolo trasloco da Sassari a Belli Punti a Tissi, un piccolo traslochino e ne ho approfittato e poi stasera siamo andati da Cinilandia, abbiamo preso i grembiuli per Paola, così è almeno questo dovere è fatto, abbiamo preso i grembiuli e poi siamo rientrati a casa. Ottima scelta, hai fatto bene, bisogna approfittarne quando è così. Va bene. E niente, nulla, una decina a un certo punto è. Qualcuno si stava scrivendo anche i nominativi perché poi alla fine non te li dimentichi. Non c'era un dirigente che passi la qua su 10. A tempo mio era un po'. Era contento, ma già ce n'è gente, già sta entrando, già sta facendo sentire. Piano piano si va avanti e nulla. Tutto così e niente, tutto così, a posto. Tu chiedere, ma quel tipo di russi non l'hai sentito tu? Sì, siamo sentiti oggi domenica, venerdì. Ecco, ne parlava con una persona che mi dava una risposta. Ma non pensavo che fosse così giù, L'ho lasciato in ultima posizione ed è sceso, era in pole position ed è sceso proprio a tasso zero. Ma lui, diciamo, come persona sta dicendo? No, è una persona molto affidabile. Come situazione ad detto, no, no, vabbè, io non... Vabbè che si vede la verità, lo vedi così di raro in paese, veramente lavoro, andrai un po' di diverso come tutti, quello sì, ma non sapevo che, come dici tu, era una posizione bassa, boh, tutto lì era in fede, insomma, ricordo mai, se non ho capito mai, si sì, doveva rientrare il 29, il 30, comunque era ancora in settimana di ferie, dunque te la stava godendo, tutto lì. E vabbè, arrivato a un certo punto, conviene sempre aspettare e sperare. Rientra domani, il 29 rientra. Rientra domani. Sì, ma capisci un attimo quello che vuol dire. Che io ho lasciato una posizione molto alta, ecco perché ero sicuro che una risposta c'era. Invece mi ha detto il telefono che è sceso di categoria, è sceso molto giù. È sceso, è caduto, capito? Non c'ha più incarichi come li avevo lasciato io. Sì, andiamo bene allora. È arrivato a un certo punto, guardato. Alla fine niente di particolare. Comunque fatto sta, sono andato alla fine, per Daniela, cinesi, ti dico che anche ora sono uscito da casa, guarda, verso le 4.20, sì, ti giuro che in giro. Siamo tutti i negozi aperti, perché oggi giudica l'ultima domenica del mese, è una cosa incredibile, no, non c'era, ti giuro, era un deserto, la verità, un deserto, pochissimissime macchine, contando che, con la scusa che i negozi sono aperti, fine mese, cioè per Daniela c'è un via vai, no, ti giuro che non c'era nessuno, veramente nessuno. Ce ne sono soldi, Antonio. Non ce n'è soldi, non ce n'è veramente. È un disastro, è un disastro. Non mi ha chiesto lavorando invece alle 10. Sto mercato infatti era aperto oggi. Esce alle 10, però rispetto agli altri domeniche, anche lì sicuramente c'è un calo molto molto basso. Io non sono andato, però adesso si vede un po' la situazione così. E dopo commenterà Dio Falchetto, pascescia e positività, pazienza e positività. Però io non ho sentito niente, no? Io ho sentito, se non sbaglio, quando è ieri, o stamattina, adesso mi ricordo, stamattina, no, ieri stavamo chiacchierando, ho fatto una bella chiacchierata ieri. Anzi, e poi sabato mattina eravamo insieme, sì, un'oretta e mezza, noi ci abbiamo preso un caffè, fatto una chiacchieratina e poi l'ho riportata a casa sua. Ma io notte ti ho sentito al finale mandare a cagare Antonio, cosa ti ha fatto? Cagare Antonio? Ah no, perché mi stavano fregando sempre, parla poi, e tu mi dici cosa hai detto, ti fa la pernacchia, hai compreso, allora alla fine mi ha andato a cagare, perché ci ha provato 3-4 volte. Fosse un microfono. vicino qualcosa. Lavora in orizzontale quella lì, e poi è lunga, non è una pentola, è un rullo. di sopra, di sotto. E vabbè, domani lo facciamo, non è un problema quello. Sì, infatti è un rullo quello del... quello del, come si chiama, del 440, vabbè, degli altri apparecchi non so come è fatta. E vabbè, basta guardatelo piano, bisogna ingrassarla un po'. Ingrassarla, non buttarla svito. C'è l'asse piccolino, la sollevi e le metti un pochettino di olio Singer, proprio una goccia, capita? O altrimenti del sapone. Una pennellata proprio piccolina piccolina di sapone liquido, in modo che non faccia rumore. Ma se domani la faccio questa, così diventa silenziosa, quando inverto la radio non cambia niente. Comunque fa molto rumore. E vabbè, la previa anche la polvere, sai, no? E per quello, magari un po' bloccata, ecco. Vabbè. Io vedo un sacco vostro, non ho fatto niente, figurati la lavoro. Forse sta anche di più, sta a casa. Oh, via, vabbè. Avanti. Antonello, riprendi. Ma a me io mi sto divertendo ad aprire questo Intec a vedere com'è dentro e nel frattempo ti stavo ascoltando e sto manovrando il cacciavite per svitare il tappo, così intanto apro per vedere com'è fatto dentro, capito? Ma qual è il baracchino? Questo Intec è piccolino, sì, è un baracchinetto, ma mi sa neanche anche troppo, sono secondo me 50 euro questa roba qua, è anche troppo. Sai, per 50 euro ne aggiungi l'ovvero, ti prendi quell'Intec che ha preso Grove con altre bande, ma rimane molto più completo, per 10 di più te lo compri nuovo con 2 anni di garanzia e rimane molto più più completo come apparato, capito? Quello modello lì, per prendere questo, ma si vede proprio un baracchinetto. Guarda, adesso lo sto guardando e ha la stessa struttura della 44, non cambia proprio niente, cambia solamente la forma, cambia solamente la marca e basta, l'unica cosa che manca è l'SM, e poi il resto internamente, adesso l'ho aperto, e anche i sensi finali della 44, no, non ne vale la pena, troppo 50 euro. Io te l'ho già detto, è un baracchino che vale poco, sinceramente, però non ho la valutazione, perché i baracchini io le do poco valore, diciamo, beh, meno che non sia un bel baracchino, però baracchini così, non quelli chiamati apparati, io apparati chiamano quelli FF, per me quelli sono baracchini, quindi valore non ne ho, ripeto, non che non sia un buon baracchino, una certa stanza completo, allora un valore glielo puoi anche dare, ma dei baracchini così, quel valore glielo dai, direi Massimiliano, non più di 50 euro, ma senza FM, cosa vuoi comprare? Ti dicono spostati in FM, non ce l'ho. Infatti glielo dico, se lo ciccia si arrangia. Ma baracchino anche se hanno le bande laterali, almeno l'FM, MFM, deve averlo, e se no che baracchino è. E quello sì è senza un bel dubbio, ma si vede, cioè, semplice, no? Si vede che non è stato mai toccato internamente, perché saldature strane, non ce ne sono, è semplicissimo, così, una M punto e basta. E funziona così, omologato, senza mai dubbi, ma niente di particolare, ma se qualcuno lo vuole meno di 50, sono io dico, sono quelli, ce lo getta, fa come vuole. E vabbè, lo può tenere scorta, può fare quello che vuole, ma alla fin fine, no? eccomi qua. Sto cercando una famiglia. Lo so. Vabbè, comunque, io lo faccio a Oakland, sai che da un lato non devo lavorare. Proprio domani, io la pulizia la leggera e passo la pelle mio. Così lo pulisco un po', perché la polvere qua lo ci manca. Lo pulisci che adesso i mobili adesso tra passano un mobile e non ho pieno di polvere. A parte il fatto che tengo la finestra, normale che entra senza, cosa sono le macchine. Ma gli altri scatto. Lo so, figurati tu che ne hai una, io con tutte quelle che ho, nei propri ieri ho spostato tutto, ho fatto pulizia e tutto quanto, perché si accumula sotto le radio la polvere e poi quando metti in funzione, fai funzionare la ventola, la polvere sotto non ce n'è nelle radio, perché li soltanto tutti i giorni. Però sotto le radio si accumula la polvere, come entra in funzione la ventola, siccome aspira, per portare fuori il calore del finale. Quindi aspirando si attacca tutto la ventola, capito? E poi alla fine diventa rumorosa, tutto il cuore. Domani ce la puliamo, non c'è problema. È una grandissima fesseria, non c'è problema. Levo il tappo, mi devo vedere come, ma c'è la polvere, sicuro. Dentro la radio? La buglia. No, io questo 140 l'ho aperto da poco, perché gli ho cambiato la batteria al litio, ed era perfetta, non ce n'era di polvere, ce n'era di più, ma C80 sì, con tutto soffiato. Ogni tanto già li apro, diamo una controllatina e non messa a punto. Ma fanno che ogni tanto, non dico spesso, ma ogni tanto. Le secondi tra, ecco, controllo un vicino all'amica, aspetta, le prendi la torello. Io sono per una sigaretta, arrivo. Vai, le 6:09. Su Sassari non ce la fa, non ce la fanno, è troppo alta la posizione, capite? Da Luigi poi non se ne parla. Non se ne parla perché mi ha chiamato Luigi e mi ha detto molto probabilmente da produttore sia importante. Scusami un attimino, allora a questo punto ti chiedo, ma è il motivo qual sarebbe? Ah boh, dillo a lui, io non ho motivazione, te l'ho già detto che io non ne ho con nessuna motivazione. Quindi no, non ho niente da aggiungere, io motivazione ovviamente importante non ne ho con nessuno. Ho sempre chiarito di persona e mi sono sempre difeso con le parole, non con la portante, quindi, capito? Lui le sta rodendo qualcosa, c'è qualcosa nella mente, sicuramente, non lo so, può darsi che mi sbaglio, ma comunque non mi interessa, visto, me ne sono andato e basta, non c'è problema. Ma io ti dico, sto mettendo la motivazione può averla solo quello del produttore. Scendi un attimino, Vicente.